pomeriggio a tutti e a tutte, le 14 in punto. Giovedì 26 marzo del 2009, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, Visionari, il consueto appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Oggi avremo diversi ospiti, parleremo di documentari, di rassegne e poi, se ci riusciamo, anche con qualche visionario per le uscite del weekend cinematografico in sala. Intanto per saperne di più potete consultare la scaletta sul sito www.ondarossa.info. Per il resto rimanete in ascolto, a tra poco. Pomeriggio a Roberto Citran, regista del documentario Stranieri in Patria, eccoci qui. Salve, buongiorno, ciao. Come va? Bene, bene, bene, dai. Si va avanti, via. Allora, il tuo documentario inserito nella rassegna curata da Maurizio Di Rienzo, Italia Doc, la casa del cinema. Parliamo un po', cominciamo parlando di questo documentario per chi ci ascolta e non lo conosce, raccontacelo un po'. Allora, è la mia storia, cioè meglio la nostra storia, nel senso che negli anni 30, in un Veneto poverissimo e affamato, sì, ci fu il miraggio delle bonifiche nell'Agropontino, in Sardegna e Toscana, per cui ci fu un vero e proprio esodo dalle nostre campagne verso il Lazio, verso la Sardegna ad Arborea e in Toscana verso Alberese. Sì. E tutto è nato da un volantino che vidi un giorno in Toscana qualche anno fa. Sapevo delle migrazioni nell'Agropontino, in provincia di Latina, non ero a conoscenza invece quelle della Toscana, e sapevo qualcosa della Sardegna. Vidi un volantino con l'annuncio di una festa popolare a base di paste fasioi in dialetto veneto, polente, osei, queste cose qui. Dico, sì, ma come, scusa, fammi capire. Sono andato un po' a indagare e ho scoperto che c'era una forte comunità di veneti, sì, che parlavano ancora veneto, sì, che nonostante fossero passati 60 anni dalle prime migrazioni, avevano proprio nel loro DNA una cultura profondamente veneta. La cosa mi ha incuriosito, anche perché poi sono andato a esplorare meglio la cosa, mi sono informato, ho indagato, ho parlato con Gianfranco Pannone, che aveva fatto a sua volta già un film in quell'area, ha incontrato vari personaggi e insieme ad altri due, Marco Petanello e Gianni Ferraretto, insomma, abbiamo cominciato a mettere in piedi questo documentario ed è nata una vera e propria storia. Abbiamo ritrovato dei vecchi documenti dall'Istituto Luce e abbiamo costruito questa storia, insomma, che siamo arrivati alla terza, quarta generazione ormai, e ci ha profondamente colpiti, insomma, anche perché ora il Veneto tutti lo conoscono come una regione ricca, no? Il ricco, sì, Nord-Est. In realtà, insomma, poco più di 60 anni fa era chiamato il sud, sì, il meridione, sì, sì, del, sì, nord, sì, capito? Sì. Quindi, senti, subito una curiosità, questo rapporto di memoria storica è bidirezionale oppure univoco da parte di coloro che si sono trasferiti? Nel senso, in Veneto questa cosa è ancora sentita o è solo un residuo di memoria di coloro che invece sono partiti e si sono insediati in altre regioni. Noi nelle varie proiezioni abbiamo scoperto che molti veneti non erano a conoscenza del fatto. Ecco. Non lo sapevano. Ovviamente per noi la cosa, tra i vari aspetti interessanti, era anche interessante capire se da parte del pubblico c'era una reazione proprio nei confronti, con le migrazioni di oggi, capisci? Per cui per noi era importante stimolare non solo un dibattito, ma anche raccontare, attenzione, perché noi adesso ci comportiamo in un modo o vediamo che un atteggiamento generale è di un certo tipo, ma forse qualcuno si è comportato in confronto dei nostri nonni nella stessa identica maniera. Anche noi abbiamo cercato lavoro altrove, e la cosa che mi interessava molto era una migrazione all'interno del territorio nazionale soprattutto, perché tutti parlano di migrazioni nel Sud America o nel Nord America o in altre zone del mondo, oppure in Germania, in Svizzera, quelle sono conoscenze di tutto, oppure nelle cave, nelle miniere in Francia, ma addirittura che ci fossero state delle migrazioni così forti, perché si parla di 35.000 persone che sono andate via dal Veneto, c'erano interi nuclei familiari, capito, che si spostavano, quindi per noi è stato interessante colpire, stimolare e accendere un dibattito. Poi ovviamente sai, gli obiettivi sono molteplici, e a me interesserebbe moltissimo ad esempio che questo documentario girasse nelle scuole, per esempio, che purtroppo ormai sembra che l'interesse verso una cultura generale, verso le cose, scusami, sto parlando un po' a rotta libera, ma è dai 40-50 in su, questo ci mette un attimo di disagio. Senti, come l'avete strutturato il documentario? Con interviste? Avete girato lì e poi in Veneto? Spiegami un po'. No, abbiamo preso contatti con le realtà locali, che sono molto unite in comunità, cioè loro abbiamo scoperto delle vere enclavi alla fine, capisci? Quindi quando tu vai a Borgo Podgora ti sembra di entrare in un quartiere veneto, in un paesino veneto, ci sono i fossi, gli eucalipti, sembra di stare come dalle mie parti, capito? Abbiamo preso contatti con le associazioni, poi un po' alla volta abbiamo raccolto circa 50 interviste e più, raccolto materiale, e poi abbiamo costruito, proprio seguendo un percorso storico, dal viaggio alle loro prime reazioni, al loro inserimento nella realtà locale, la guerra, subito dopo guerra, in particolare il boom economico che c'è stato negli anni 60-70 nella zona di Latina, per arrivare fino ai giorni nostri. Quindi abbiamo seguito proprio in ordine cronologico i fatti, gli avvenimenti. Senti, dalle testimonianze che avete raccolto, hai trovato analogie appunto rispetto al discorso che facevi prima sulla moderna migrazione, cioè l'accoglienza rispetto a queste persone che da un territorio si spostavano in un altro, hanno trovato difficoltà riguardo all'accettazione proprio? Quello che abbiamo trovato un po', che si può accomunare, è una paura verso chi viene da fuori, perché abbiamo intervistato i sezzesi, no? Quelli che abitavano sui Monti Lepini, che erano quelli subito sopra la zona di Latina, e questi avevano un rifiuto, se vuoi, immediato nei confronti di questi veneti che erano arrivati dal nord per espropriare quasi la loro terra, solo che non era una terra lavorata allora, capito? Però c'era una diffidenza. D'altro canto abbiamo scoperto che c'era una supponenza da parte di veneti che si sentivano in qualche modo comunque superiori, non si capisce per qual motivo, capito? Cioè, Antonio Pennacchi ha usato questa espressione, noi eravamo i WASP e loro gli indiani, no? E che è stranissima questa cosa. Cosa ovvia è che ogni migrazione ha una motivazione forte, ogni migrazione è spinta da un motivo fondamentale, dove nel posto dove vivi probabilmente non puoi più vivere, vuoi per la fame, vuoi adesso per le guerre, ma quello è il motivo forte che spinge delle persone a emigrare, perché sai, si tratta di lasciare la propria casa, la propria terra. Questi andavano verso il nulla, non sapevano dove andavano a finire, mm-hmm. non erano mai stati fuori dal loro paese, capito? Quindi c'era gente che non aveva mai preso un treno in vita sua, capito? Sì. Quindi erano come dei bambini di fronte a un viaggio verso nello spazio, capito? Mm-hmm. Quindi questa è la cosa che credo che sia la cosa fondamentale da capire alla base di tutto questo, che una migrazione è spinta da motivazioni forti. Mm-mm. Senti Roberto, allora in chiusura ricordiamo l'appuntamento alla Casa del Cinema all'interno della rassegna Italia Doc. È insieme in compagnia con un altro documentario su Andrea Zanzotto di Nello Risi. E per dirla, per concludere, il film ha vinto un premio, lo diciamo perché ne sono particolarmente orgoglioso, il premio Libro Bizzarri Festival Documentari Nazionale che c'è stato lo scorso anno, se non sbaglio. Senti, il giorno e l'orario? Dunque, mercoledì 1 aprile, non è uno scherzo, alle 4 del pomeriggio. Benissimo, grazie, allora benissimo. Un abbraccio e a presto. Grazie, ciao. Era Roberto Citran, regista del documentario Stranieri in Patria, e questa Radio Onda Rossa, visionario, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Proseguiamo. Con Ferdinando Vaselli, come va? Ingoiato il boccone? Il boccone di Caciocavallo, sì. Buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio Federico. E ben trovato su queste frequenze, visto che passi dal teatro al cinema come se nulla fosse. La prossima volta mi intervisterai che sarà uno spettacolo di danza buto. Allora, tu sei l'ideatore, realizzatore, ma non regista, del documentario Sottoterre. Raccontaci un po'. Sottoterre nasce da un'idea di spettacolo teatrale e di documentario. Sì. Ed è un viaggio in Italia per raccontare i beni culturali, no? Perché i beni culturali? Perché sostanzialmente credo che sia uno dei paradossi più grandi, che l'Italia abbia il più grande patrimonio, no? Si dice 40, 50, non si capisce bene, oppure come quantificare questi beni culturali, e un investimento scarsissimo sulla cultura, se si pensa che l'Italia ha lo 0,29 del PIL, lo Stato investe lo 0,29 del PIL, mentre la Francia l'1 e la Germania 1,35. Insomma, un discorso abbastanza, se vuoi, già risaputo e superato da varie polemiche, Ti sento un po' attufato. Mi senti un po' attufato? Ecco, adesso meglio, molto meglio. Oh, sei squillante adesso, via. Adesso mi senti squillante? Sì. No, perché parlavo di cultura e piano piano mi ammosciavo. Ti stavi addormentando. Allora dicevo, non so che cosa vi ho detto fino adesso, comunque si è capito. No, meno male, sono contento. E allora siamo partiti per raccontare appunto questo, tentare di raccontare l'Italia. La prima tappa è quella di raccontare le mie parchi, le mie zone, sì. Ovvero la Tuscia, la parte della zona del Viterbese, sì. Lì ovviamente abbiamo le testimonianze degli Etruschi, le testimonianze del Medioevo, del Rinascimento, e poi c'è la via Francigena, che è quella strada che porta a Canterbury, come si dice, no? Sì. Perché è